America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, abbiamo parlato nei giorni scorsi di cose piuttosto interne dal punto di vista americano. Ieri l'America ha assunto una posizione da potenza globale nei confronti di altre potenze globali. Abbiamo un paio di interventi, uno nei confronti della Russia. Si è sbloccata una situazione piuttosto importante nella Commissione al Senato per approvare, per ratificare il trattato sul disarmo nucleare firmato da Barack Obama e dal presidente russo Dmitry Medvedev. Ma c'è stato anche un appello nei confronti della Cina, quindi l'altro grande interlocutore globale. Oggi si dice bipolare, si dice A20, però in realtà il rapporto oggi è soprattutto tripolare. Bene, nei confronti della Cina gli Stati Uniti hanno di nuovo alzato il tiro, ci sono state accuse di nuovo sullo yuan. Lo yuan è troppo debole, si deve rivalutare con maggiore aggressività. Lo ha detto il segretario al tesoro Geithner, lo hanno detto vari senatori. Today is an important milestone for nuclear security and non-proliferation and for US-Russia relations. Barack Obama che annuncia dalla sala spagnola al castello di Praga la firma dell'accordo, le sue dichiarazioni, l'importanza nel proseguire lungo la strada della non proliferazione nucleare, la data l'8 di aprile scorso. Perché è importante questo passaggio in commissione di ieri? Perché ci sono stati 14 voti a favore e soltanto 4 contrari, per cui dobbiamo dedurre che quando si arriverà al voto finale in Senato ci sarà una maggioranza piuttosto schiacciante, una maggioranza bipartitica. E allora riprendiamo, tornando all'8 di aprile, quando ci fu il vertice di Praga, un po' le fila di questo approccio diplomatico americano nei confronti del disarmo nucleare. Perché? Perché dopo l'8 aprile ci fu subito dopo un altro vertice a Washington, il 12 di aprile, un vertice importante che così non era più bilaterale. Stati Uniti e Russia arrivavano a Washington dopo aver firmato un accordo che imponeva un tetto massimo di 1550 testate, circa un terzo rispetto al limite attuale del precedente accordo di 2200 testate, quindi una forte riduzione. Ma il vertice di Washington serviva a garantire la non proliferazione. Tutto questo in che contesto? Ovviamente tutto questo nel contesto anti-Iran. Abbiamo visto ancora nei giorni scorsi che l'Iran continua a sviluppare tecnologia per produrre bombe atomiche, così veniamo a sapere che ci sono nuovi impianti segreti che improvvisamente vengono scoperti da rilevazioni satellitari oppure da ispezioni condotte dalle autorità. E dunque, nonostante successivamente agli incontri di Praga, a quelli di Washington, ci sono poi state le sanzioni delle Nazioni Unite contro l'Iran, Teheran prosegue imperterrita. La ratifica di questo trattato sarà importante perché consentirà, diciamo così, di tenere il dibattito alto su questo punto e soprattutto avviene a pochi giorni dalle riunioni delle Nazioni Unite che cominceranno la settimana prossima. E dunque prepariamoci di nuovo a un fuoco di fila sul fronte nucleare contro l'Iran. Devo dire è indispensabile che si vada avanti lungo questa linea. L'intera comunità internazionale è schierata a favore di una denuclearizzazione del Medio Oriente. L'Iran se ne infischia, continua ad andare avanti lungo la sua strada. Anche una piccola cosa come il passaggio in questa commissione, poi la grande cosa, le riunioni dell'ONU, l'Assemblea Generale dell'ONU della settimana prossima, consentiranno di tenere la pressione elevata. Treasury Secretary Timothy Geithner said Thursday that China has been too slow to move toward a more flexible exchange rate. Secondo fronte globale dal punto di vista americano, certo la polemica continua a infuriare sui Tea Parties. Proprio ieri è intervenuta Hillary Clinton che con una dichiarazione ha detto che questi fanno i populisti, protestano, vogliono chiudere Washington, poi quando arriveranno a lavorare al Congresso invece in genere si allineano esattamente come gli altri. Vi dicevo comunque l'attenzione è soprattutto sul fronte internazionale con l'attacco a Pechino, l'attacco alla Cina, di nuovo sul fronte valutario, sul fronte dello yuan. Lo yuan è troppo forte, questo crea dei problemi all'esportazione americana, in qualche modo scardina gli equilibri valutari e crea tutta una serie di ripercussioni negative per gli equilibri valutari internazionali. Ad esempio, qualcuno sostiene che il rimbalzo del prezzo dell'oro, che continua a aumentare, è una conseguenza di queste dicotomie sul sistema valutario internazionale. E abbiamo sentito Alan Greenspan, l'ex governatore della Banca Centrale Americana, comunque sempre una delle più autorevoli fonti economiche, che ha detto: quando il prezzo dell'oro è così alto e continua ad aumentare così rapidamente, beh, dobbiamo preoccuparci, perché, ha detto, e queste sono state le sue testuali parole, è un po' come quando vediamo il canarino volare nella miniera, vale a dire stiamo attenti perché forse qualche cosa potrebbe crollare o potrebbe esplodere. Beh, sappiamo che ci sono degli squilibri valutari, perché al di là della questione yuan abbiamo visto uno yen invece giapponese molto forte, un franco svizzero molto forte. Pensate che la Banca Centrale Svizzera ha speso 40 miliardi di dollari per cercare di rallentare l'ascesa della sua valuta. Ecco, non ha avuto alcun risultato. Sono dei beni rifugio, ci sono preoccupazioni per l'economia americana. Qualcuno ha calcolato che se per caso il dibattito sulle tasse qua in America dovesse andare bene, costerà un aumento fiscale negli Stati Uniti d'America 2 punti percentuali sul PIL. Dunque la preoccupazione è legata a mancata crescita americana, e questo lo sappiamo, debolezza dell'occupazione, e questo lo sappiamo. Da un punto di vista internazionale si cercano delle valute più rifugio, che sono lo yen e che sono il franco svizzero, e l'oro esplode. Attenzione dunque, teniamo ben presente le parole dell'ex governatore Alan Greenspan, perché la storia ci insegna, o almeno mi ha insegnato, che le parole di Geithner e quelle dei senatori che ieri hanno parlato anche loro piuttosto aggressivamente contro la Cina, alla fine lasciano un po' il tempo che trovano. E dunque questa situazione di squilibrio proseguirà fino a quando non se ne discuterà in modo più approfondito, prima alle riunioni del Fondo Monetario Internazionale che si terranno in ottobre, ai primi di ottobre a Washington, l'8 e il 9 di ottobre a Washington, e poi subito dopo a novembre nelle riunioni del G20. Stiamo per lasciarci, voglio raccontarvi una curiosità. È mancato ieri James Winner, 81 anni, è stato il creatore e quello che poi ha diffuso in tutto il mondo il club, quella sbarra con due uncini che si mette sul volante, l'antifurto classico. Gli rubarono la macchina all'inizio degli anni 80, decise di fare qualche cosa per scoraggiare i ladri e vendicarsi dei ladri che gli rubarono la macchina, e si inventò questo marchingegno. Pensate, ne ha venduti 10 milioni di pezzi in tutto il mondo, è diventato miliardario, filantropo, a 81 anni, vi dicevo, ci ha lasciato ieri, come in un incidente d'auto. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Il regista hollywoodiano Joel Schumacher girerà un film su Barry White, leggendario cantante soul. Dunque la canzone del giorno la dedichiamo a Barry White con You Are the First, the Last, My Everything. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24.